tipi di personaggi che noi trattiamo al Falco e il Gabbiano, o ci sono casi, insomma, di personaggi dei quali non si sa nulla, che andiamo un po' a scoprire, oppure personaggi molto conosciuti. Spesso ci scrivete, parla di questo, di quest'altro, cosa che ovviamente ci fa enorme piacere. E naturalmente, quando il personaggio è, come dire, di popolarità assodata, bisogna in qualche modo evitare l'effetto Wikipedia, bisogna andare a trovare delle cose particolari, aneddoti, chiavi di lettura degli avvenimenti che possano caratterizzare i nostri protagonisti. E questo diventa interessante, anche complesso, quando ci accingiamo, insomma, a parlare di qualcuno veramente famoso del quale sembrerebbe essere già stato detto tutto. E questo è il caso del nostro protagonista di oggi. È una delle star più grandi di Hollywood, uno degli attori più carismatici, di maggior talento di tutti i tempi, ma era anche un grande rivoluzionario. Questo è già un aspetto un po' più inedito. Un attore straordinario, uno che si è imposto per il suo spessore, è diventato una vera e propria icona grazie alla capacità di vivere i personaggi che lui interpretava con un approfondimento proprio delle pulsioni psicologiche interiori, cose che spesso non esistevano neanche nella sceneggiatura originale. Insomma, stiamo parlando di un uomo di una intelligenza emotiva, direi decisamente sopra la media, e lui questa intelligenza non l'ha sviluppata solo nella sua professione di attore, ma anche nella vita privata. Lui è stato un ribelle, si è battuto per tutta la vita in favore dei diritti umani delle minoranze che, insomma, nel suo paese, che sono gli Stati Uniti, hanno subito ingiustizie drammatiche, e lui ha denunciato queste ingiustizie, e ogni volta che ne ha avuto l'opportunità ha fatto qualche gesto clamoroso. Insomma, oggi dedichiamo la nostra puntata al gigantesco Marlon Brando, gigantesco devo dire soprattutto negli ultimi anni anche in quanto a mole fisica, un interprete tra i più considerati proprio sotto il profilo della tecnica di recitazione, anche se in realtà lui aveva detto che siamo tutti attori, noi recitiamo tutti ogni giorno. I think that we couldn't survive a Penso che non potremmo sopravvivere un solo secondo se non fossimo tutti capaci di recitare. Recitare è un meccanismo di sopravvivenza, un lubrificante sociale. Recitiamo tutti i giorni per salvare le nostre vite. La gente mente consapevolmente, sempre, non dicendo quello che pensa o dicendo quello che non pensa o mostrando quello che non prova. Faccio un esempio. Se lavori per un'agenzia pubblicitaria e non puoi sopportare il tuo capo, il boss, e lui arriva con delle idee assurde, qualcosa che ti fa dare fuori di matto mentre torni a casa in auto, beh, tu sai dannatamente bene che non potrai restare nella posizione lavorativa nella quale ti trovi se non gli dici: Leonard, la tua idea è straordinaria. È bellissima. E questa era un'intervista molto particolare, divertente, anche ricca di sfumature. Siamo nel 1973, lui è ospite del programma Dick Cravett Show, che è un talk show all'americana, non so, Maurizio Costanzo show americanizzato, e lui fa una dissertazione molto lunga ma molto interessante sul significato della parola attore. Se poteste ascoltarla tutta vi rendereste conto proprio dello spessore della persona, perché ogni parola che lui pronuncia ha un peso specifico altissimo. Lui è un personaggio che va raccontato proprio nella sua interezza di uomo. Bisogna tener conto anche di avvenimenti che lo hanno segnato profondamente fin da quando era bambino, che hanno formato la sua figura carismatica, quell'uomo insomma interessante, affascinante, che tutti noi conosciamo. Marlon Brando nasce il 3 aprile del 1924 a Omaha, che è in Nebraska. Lui è il terzo di tre figli, ha due sorelle più grandi, Jocelyn e Frances. Il padre, Marlon Senior, è un produttore di pesticidi e sostanze chimiche. La madre, si chiama Dorothy Julia Penbaker, è un'ex attrice che non ha sfondato, che ha affogato le sue frustrazioni nell'alcol, e qui c'è già una cosa, insomma, che ricorrerà. La famiglia non è una famiglia felice, perché anche il padre beve, sta fuori casa, sperpera i soldi, tradisce la madre, poi la picchia. vecchia, insomma lo scenario è decisamente doloroso e negativo. Marlon adora la madre e cresce con questo senso di inadeguatezza, con la paura di essere abbandonato. Lui in realtà ha parlato sempre poco degli anni tragici della sua infanzia, anni che lo hanno segnato indelebilmente, che gli hanno lasciato una grande difficoltà proprio a lasciarsi andare ai sentimenti. Lui è sempre stato un ragazzo e poi un uomo molto chiuso, con un senso profondo di insicurezza, con un complesso di inferiorità che tutto sommato non l'ha mai abbandonato malgrado la fama raggiunta. È uno di quelli che sembrano anaffettivi, poi in realtà non è così. Lui è un ribelle, uno che non accetta le ingiustizie, e questo poi influenzerà le sue scelte future, il suo schierarsi a favore delle minoranze, dei perseguitati per tutta la vita. A scuola ovviamente va malissimo, viene cacciato dal liceo perché attraversa l'atrio con la motocicletta, il padre vuole raddrizzarlo, lo manda alla Shattuck Military Academy, che è una scuola militare molto severa del Minnesota. Ovviamente viene espulso anche lì, allora scappa, se ne va da casa e raggiunge le sorelle che nel frattempo si erano trasferite a New York. Sono arrivato a New York con i calzini bucati e i buchi nella mente. Mi ricordo che mi sbronzavo, mi sdraiavo sul marciapiede e dormivo. Nessuno mi disturbava. Ho sempre avuto un'insaziabile curiosità per la gente. Mi piaceva camminare per la strada osservando i volti. Andavo all'angolo fra la Broadway e la 42esima al negozio di sigari Optimo. Guardavo per 3 secondi la gente che passava, cercando di analizzare la loro personalità in quel breve istante. Il viso può nascondere molte cose. La gente nasconde sempre qualcosa. Mi interessava indovinare che cosa non sapessero di loro stessi, cosa provavano, cosa pensavano, perché provavano quelle cose. Provavo un senso di inadeguatezza, non ne sapevo abbastanza, non avevo studiato abbastanza, mi sentivo stupido. E quello che avete appena sentito è un passo di un documentario molto toccante che si chiama Listen to Me Marlon di Stephen Reilly. Siamo nel 2015, lui ha ripercorso la vita intera di Marlon Brando, l'ha ascoltata proprio dalla sua voce, registrazioni vocali e anche addirittura sedute di autoipnosi. Insomma, è un documento inedito molto importante perché è una specie di memoriale, l'attore che racconta per la prima volta, più che i fatti che si conoscono, quello che provava lui di fronte a quei fatti, i suoi sentimenti, le sue sensazioni in relazione a determinati avvenimenti della sua vita. Insomma, capite, si è fatta luce su diversi eventi poco chiari che lui stesso non aveva mai raccontato, perché come dicevamo prima lui è sempre stato uno molto chiuso, molto riservato. Beh, grazie a queste registrazioni fatte negli ultimi anni della sua vita travagliata, oggi possiamo approfondire un po' meglio la vicenda di questo ragazzo ribelle che nel 1943 a 19 anni era arrivato a New York senza un soldo, in cerca della sua strada. Marlon vorrebbe fare l'attore a New York, si iscrive alla scuola d'arte drammatica fondata da un regista tedesco, Erwin Piscator, il posto si chiama The Dramatic Workshop, e lui lì ha come compagni di studio Tony Curtis, Harry Belafonte, Shelley Winters e Rod Steiger, niente male, e in questa scuola lui diventa allievo di Stella Adler, che era un'attrice teatrale molto famosa, ma soprattutto una grande insegnante, insomma è considerata una delle più importanti innovatrici della tecnica recitativa del XX secolo. Eh sì, perché Stella Adler insegna il famoso metodo Stanislavski, spero ne abbiate sentito parlare, messo a punto appunto dal tecnico del teatro Konstantin Sergejevich Stanislavski, che era un grande attore, un regista russo. Beh, il metodo Stanislavski, per farvela breve, si basa su un approfondimento psicologico, cioè cercare le affinità tra il mondo interiore dell'attore e quello del personaggio, immedesimazione, insomma. E questa tecnica trova in Brando l'interprete perfetto. Già lui, che l'abbiamo visto, è abituato a scandagliare il suo animo e anche quello degli altri, lui arriva a un livello tale di immedesimazione che lo porterà poi a quelle interpretazioni gigantesche che tutti conosciamo. E per esempio c'è un episodio molto famoso che raccontava sempre Stella Adler per fare capire di quanta intelligenza fosse dotato Marlon fin da ragazzo, di quanto avesse senso di osservazione, spirito critico, ma anche di come fosse sempre quello che cantava fuori dal coro, di come fosse già un rivoluzionario. Facevo fare diversi esercizi di immedesimazione in situazioni al limite. Così una volta dissi agli allievi di comportarsi come polli mentre una bomba nucleare stava per schiantarsi sopra di loro. Tutti si misero a starnazzare, scappando in preda al panico. Solo lui aveva continuato impassibile a imitare il pollo che becchetta in giro in cerca di cibo. «Beh, che stai facendo?» gli chiesi. «Sto semplicemente facendo il pollo. Se sono un pollo, cosa ne so io di bombe nucleari?» Era una spanna sopra tutti gli altri. E non perché sapesse recitare meglio, ma perché era più intelligente. Stella Adler insegna a Marlon Brando che non si recita con le parole ma con l'anima, e gli dice: non avere paura, tu hai il diritto di essere chi sei, dove sei e come sei. Insomma, gli insegna a essere onesto sul palco, a sentire le cose veramente, l'amore, la furia, lo spinge a tirare fuori tutto quello che lo tormenta, a non portare nulla nel presente che non abbia un passato. Il passato è importante per il nostro presente. Insomma, sono frasi che rappresentano la salvezza per questo ragazzo difficile con questa infanzia tormentata. Lei non è solo un'insegnante, è una psicoterapeuta, e lì trova terreno fertile e i frutti saranno straordinari. E lui nel 44, a 20 anni, debutta già in teatro a Broadway. La commedia si intitola I Remember Mama di John Van Druten. Nel 46 è l'eroe del dramma politico A Flag Is Born di Ben Acht, e intanto lui sta frequentando l'Actor Studio di Strasberg, insomma un'altra scuola famosissima che ha generato mostri di recitazione. Quasi tutti i grandi divi di Hollywood sono passati dall'Actor Studio. E poi arriva il 47, anno del colpo d'ala, almeno dal punto di vista del successo teatrale, perché lui veste i panni di un tormentato e violento Stanley Kowalski nel dramma di Tennessee Williams, un tram che si chiama Desiderio. E quella di Stanley Kowalski è un'interpretazione travolgente, e Brando si guadagna subito l'interesse del grande schermo, di quelli che si occupano del grande schermo. Fred Zinnerman deve dirigere un film che si chiama The Man, vuole Marlon Brando, e peraltro poi il film verrà tradotto Il mio corpo ti appartiene. In Italia, insomma, spesso ci sono un po' degli autogol nelle traduzioni dei film dall'inglese. Comunque è la storia di Ken, che è un reduce tornato paraplegico dalla Seconda Guerra Mondiale. E lì Brando dà il via alle sue interpretazioni mitiche. Si compenetra totalmente nella storia di Ken, passa diversi mesi in un ospedale circondato da veri reduci, vive giorni interi sulla sedia a rotelle per imparare a muoversi come un paraplegico, proprio come gli attori delle fiction italiane. Insomma, regala una interpretazione straordinaria. Il film è molto crudo, racconta anche cose, insomma, forse un po' in anticipo sui tempi. Per esempio parla delle difficoltà a livello sessuale che incontrano i paraplegici. Insomma, il risultato è che il successo è inferiore a quello che meriterebbe la società americana e perbenista adesso, figuratevi allora. Brando comunque ottiene un riconoscimento che lo porta alla sua definitiva consacrazione, perché l'anno dopo realizza la versione cinematografica di quello che aveva già fatto a teatro, un tram che si chiama Desiderio, il film diretto da Elia Kazan, interpretato anche da Vivien Leigh. Mio marito è troppo occupato a rimpinciarsi come un maiale per pensare ad altro. Hai la faccia e le mani disgustosamente unti. Vatti a lavare e aiutami a sparecchiare. Ecco come sparecchio io. Non ci provare più a parlarmi così, hai capito? Maiale disgustoso, volgare, unto. Sono parole che tu e tua sorella avete pronunciato troppo spesso in questa casa. Ma chi credete d'essere, due regine? Ricordati l'antico detto cinese che ogni uomo è re e io sono il re qui. Non te lo dimenticare. Ecco, il mio posto è bello sparecchiato. Vuoi che sparecchi il tuo? E Stanley Kowalski sarà il primo grande ruolo iconico della carriera di Marlon Brando. Viene etichettato immediatamente come sex symbol di Hollywood, e anche la prima nomination all'Oscar ne collezionerà 8. tutto nella sua carriera travolgente. Da quel momento in poi partono 10 anni di successi immensi, continui. Marlon Brando, insomma, diventa veramente la leggenda che tutto il mondo conosce. Nel 52 arriva Viva Zapata, ancora di Elia Kazan, racconta l'epopea del rivoluzionario messicano Emiliano Zapata. E lì Brando riceve prestigiosi riconoscimenti, seconda nomination all'Oscar, premio BAFTA, che è l'Oscar britannico, poi vince a Cannes per l'interpretazione maschile. Nel 1953 Marco Antonio, nel film Giulio Cesare di Mankiewicz, e accanto a lui c'è il grande James Mason, altra nomination all'Oscar, altro premio BAFTA come miglior attore internazionale. E poi arriva il trionfo ancora nel 53, il primo ruolo da protagonista assoluto, quello del ribelle appassionato di moto, la storia di Johnny Strabler nel film di Laszlo Benedek, Il Selvaggio. Lui guida la sua Triumph Thunderbird e la sua immagine diventa veramente, insomma, fa il giro del mondo. Ci sono ancora le magliette con Marlon Brando vestito con il giubbotto di pelle nera, i jeans, in sella alla moto, e lì diventa veramente immortale. La statua al Museo delle Cere di Madame Tussauds a Londra lo ritrae proprio nei panni del mitico Selvaggio. Il successo è travolgente. Dopo l'uscita del film si impennano le vendite dei giubbotti di pelle, tutti vogliono essere come lui, come il grande Johnny Stabler, che ha tutte le donne ai suoi piedi. Dove ve ne andate dopo qui? Non lo sa? No, andiamo dove capita. Io lo dicevo per parlare, non che me ne importi. Il sabato e la domenica andiamo sempre fuori noi. Ma cosa fate? Andate in giro così o andate a fare un picnic in qualche posto? Un picnic? Ma allora sei proprio un giglio, hai bisogno di essere svegliata. Non si va in nessun posto, questo lo facevano i nostri nonni. Si va e via. Il sabato ci si trova insieme e si va fuori. L'importante è scappare. Andare a tutto gas ogni tanto. Un uomo ha bisogno di imballare il motore ogni tanto. Capisci cosa voglio dire? Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Il nostro straordinario protagonista di oggi è Marlon Brando, una delle più grandi star di Hollywood di tutti i tempi e uno degli attori più carismatici della storia del cinema, ma anche un rivoluzionario e un ribelle. Film cult, Un tran chiamato desiderio, Il selvaggio, e poi ne stanno arrivando altri dei quali stiamo per parlare. Insomma, ha segnato indelebilmente la storia del cinema, ha dato vita a personaggi di spessore immenso, indimenticabili. 8 volte candidato all'Oscar, 2 statuette nella sua bacheca. Lui lega indissolubilmente la sua immagine di ribelle alle proteste in favore dei diritti umani e in particolare per il movimento afroamericano e contro le terribili ingiustizie perpetrate sugli indiani d'America. E nel nostro racconto siamo arrivati al 54, anno decisivo per Marlon Brando, che interpreta lo scaricatore di porto e ex pugile Terry Malloy. Lui deve vedersela con la malavita locale nel mitico film di Elia Kazan, Fronte del Porto, film che racconta la redenzione di Terry nonostante un fratello, Charlie, che è Rod Steiger, che è coinvolto in traffici loschi, in un'organizzazione criminale che gestisce i lavoratori del porto di New York, che vuole tirare dentro al suo giro anche il fratello. E l'interpretazione di Brando è superlativa, lui va oltre la normale recitazione, lui affianca il regista nella resa di molte sequenze. Ascoltate cosa aveva dichiarato proprio Elia Kazan a riguardo. Quello che è stato straordinario, a mio parere, è il contrasto del carattere da duro e l'estrema delicatezza del suo comportamento. Quale altro attore, quando Charlie maneggia una pistola per costringere Terry a fare qualcosa di vergognoso, avrebbe messo la mano sulla pistola e l'avrebbe spinta via con la dolcezza di una carezza? Chi altro poteva mormorare «Oh, Charlie», con un tono di rimprovero così amorevole e così malinconico da suggerire la profondità terrificante del dolore? Non riesco a immaginare una migliore performance da un attore nella storia del cinema in America. Eh sì, una delle grandi forze di Marlon Brando è proprio quella di non tagliare i personaggi con l'accetta. Nella vita come nel cinema non ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall'altra, e lui ha sempre il beneficio del dubbio e dà beneficio del dubbio anche a chi guarda i suoi film. E grazie a un'interpretazione così profonda, Marlon Brando si aggiudica l'Oscar come miglior attore protagonista nel 55, vince anche il BAFTA come miglior interprete internazionale, vince il Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico. Potevi diventare un campione, ma quella bestia del tuo allenatore t'ha dato il via troppo presto. La colpa non è stata dell'allenatore. Ricordi quella sera che sei venuto da me e mi hai detto che dovevo assolutamente perdere? Avevate puntato tutto su Wilson. Te lo ricordi? E fu un peccato, perché io avrei potuto vincere molto facilmente. E da quella sera non so come mai, ma non ho più avuto fiducia in me stesso. Non ho più saputo battermi. Tu eri mio fratello maggiore, avresti dovuto pensarci a questo. Avresti dovuto capire che non valeva la pena di sacrificarmi così per 4 soldi. Ma un bel po' di soldi non li hai avuti anche tu. Ma non è questo, è questione di classe. Potevo diventare un campione. Potevo essere qualcuno. Invece di niente, come sono adesso, diciamolo. Fronte del Porto consacra Marlon Brando come vera e propria leggenda vivente dello star system di Hollywood. Lui però è molto poco in linea con quel sistema. Tra poco lo contesterà pesantemente e per motivazioni di estrema gravità. Vedremo come. It's a very strange thing, this business of storytelling. È strano quando il tuo lavoro è raccontare storie. Non sai sempre valutare quanto sei bravo. La gente ti mitizza, a prescindere da quello che fai. Sembra assurdo che le persone spendano soldi guadagnati a fatica per entrare in una stanza buia e stare seduti a fissare uno schermo cristallino su cui le immagini si muovono e parlano. E il motivo per cui non c'è luce al cinema è che devi essere da solo, con la tua fantasia. La persona sullo schermo fa tutte le cose che vorresti fare tu. Bacia la donna che vorresti baciare tu. Picchia quello che vorresti picchiare tu. È coraggioso nel modo in cui tu vorresti essere coraggioso. Il pubblico si mette nelle mani del personaggio. Crea cose che non esistono. Io non c'entravo nulla. Fa tutto il pubblico. Sono loro che recitano. Tutti prima o poi si sentono dei falliti. Tutti sentono che avrebbero potuto essere qualcuno. Beh, lui tende a sminuire il suo lavoro, ma in realtà il suo successo non conosce soste. Nel 54 è Napoleone Bonaparte, nel film Désiré, nel 55 c'è un film Bulli e Pupe che lui interpreta con Frank Sinatra, nel 56 La casa da te alla luna d'agosto, nel 57 Sayonara, altro capolavoro che gli vale la quinta nomination all'Oscar. Poi diventa biondo nei Giovani Leoni insieme a Montgomery Clift e Dean Martin. Poi gira un film con Anna Magnani, Pelle di serpente, di Sidney Lumet. Poi firma la prima e unica regia della sua vita nel 61. Il film è I due volti della vendetta, un western epico. E poi arriviamo al 62. E qui c'è un altro capolavoro assoluto che spero abbiate visto almeno una volta: Gli ammutinati del Bounty, nel ruolo del leggendario primo ufficiale Fletcher Christian. E sul set del film Gli ammutinati del Bounty a Tahiti, Marlon Brando conosce una bellissima donna, è un'attrice franco-polinesiana di Bora Bora, si chiama Tarita Teripia, diventerà la sua terza moglie quello stesso anno. I due avranno due figli e vivranno nell'isola Tetiaroa, nella Polinesia francese. Eh sì, perché nel frattempo Marlon Brando si è comprato un'isola, oggi è diventata un resort di lusso e si chiama The Brando. Divorzieranno i due nel 72, ma al di là di questo episodio, diciamo felice anche se temporaneo, della vita privata di Brando, c'è da dire che Gli ammutinati del Bounty stranamente è un flop, non piace alla critica, viene giudicato un film poco incisivo. La colpa viene data proprio a lui, a Brando, che con comportamenti ribelli e fuori dalle regole avrebbe creato, diciamo, un'atmosfera poco vivibile sull'isola e sul set. Da questo momento, almeno fino al 69, la carriera di Brando sembra sembra declinare. 9 insuccessi di fila, tra questi anche La Contessa di Hong Kong di Charlie Chaplin con Sophia Loren. Insomma, si fa questa nomea lui di attore difficile che non va d'accordo con nessuno. Il mondo dovrà ricredersi, perché poi lui è una fonte inesauribile di talento, e Marlon ha in serbo ancora interpretazioni straordinarie che lo consacreranno come il più grande di tutti. Il Falco. Il Falco. Il Falco. E il Gabbiano. E il Gabbiano. E il Gabbiano. '69, Marlon Brando è nel suo momento più basso, la carriera sembra finita, e poi gira Queimada, un film di Gillo Pontecorvo contro il colonialismo, un film criticatissimo e poi rivalutato. L'attore dirà: è stata una delle mie migliori interpretazioni. Poi nel 71 arriva il grande colpo d'ala di Marlon Brando, l'interpretazione del ruolo di Don Vito Corleone nel film di Francis Ford Coppola, Il Padrino. La Paramount non lo voleva recitare questo film, spaventata dai suoi insuccessi precedenti e forse anche dal suo carattere, ma Coppola lo vuole fortemente, anche perché lui fa un provino straordinario. Si deve invecchiare notevolmente, perché lui all'epoca ha 47 anni, deve sostenere la parte di un uomo molto più anziano, e poi si inventa quella cosa geniale di recitare con del cotone in bocca per assumere questo aspetto un po' da bulldog, con le guance appesantite per apparire più vecchio, e poi caratterizzando in tutto con quella inconfondibile parlata particolare. You talk about vengeance. Is vengeance gonna bring your son back to you? My boy to me. I forgo the vengeance of my son. Ed è per egoismo che rinuncio. Un altro mio ragazzo ha dovuto lasciare questo paese. I have to make arrangements to bring him back here safely, clear of all his false charges. But I'm a superstitious man. Ma io sono superstizioso, sapete. E se gli capitasse un incidente, o se pigliasse una palla nella testa da parte di qualcuno della polizia, o se lo trovassero impiccato nella sua cella, e perfino se fosse colpito da un fulmine, qualcuno dei presenti ne sarebbe responsabile. E allora io non perdono, ma tolto questo, vi prometto e vi giuro, sulla testa dei miei nipotini, che non sarò io il primo a rompere la pace stipulata oggi. E con Il Padrino Marlon Brando stravince il suo secondo Oscar, e questa volta, attenzione, non si presenta alla cerimonia di premiazione, manda al suo posto una ragazza indiana, Sachin Littlefeather. È il suo modo di protestare per come Hollywood ha sempre trattato il popolo degli indiani, dei nativi americani. Li ha sempre dipinti come dei criminali assassini, come delle persone inferiori. Questa è la più ribelle delle posizioni di Marlon Brando. Pensate, una indiana che va a ritirare l'Oscar e lui che non si presenta, ma lui ha a cuore i problemi delle minoranze. Questo evento naturalmente ha un impatto mediatico dirompente. Ma lui in realtà aveva sempre preso posizioni anche impopolari a favore degli afroamericani, degli indiani nativi americani, ma nonostante questa opposizione all'establishment, il suo successo è strabiliante, nessuno può fermarlo. L'anno dopo viene ripetuto, questa volta è un film che gli varrà un'altra nomination all'Oscar e diventerà un vero e proprio cult, uno dei film più discussi e controversi della storia del cinema, Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci con Maria Schneider, alla quale abbiamo già dedicato una nostra puntata. E dopo Ultimo Tango, Brando partecipa ancora a diversi film, recita nel Colossal Superman nel ruolo del padre del supereroe, poi dà vita a un altro personaggio mitico, il colonnello Kurtz, nel film Apocalypse Now, ancora con Francis Ford Coppola, film, lo sapete, ambientato nella guerra del Vietnam. Non esistono parole per descrivere lo stretto necessario a coloro che non sanno cosa significhi l'orrore. L'orrore L'orrore ha un volto. E bisogna essere amici dell'orrore. L'orrore e il terrore morale ci sono amici. In caso contrario, allora diventano nemici da temere. Sono i veri nemici. E però qualcosa è cambiato in lui. Forse dovremmo dire che i suoi demoni stanno emergendo pesantemente. Intanto ha iniziato a ingrassare in maniera paurosa. Arriverà oltre 150 kg. E poi c'è la sua vita privata, che è disastrosa, tragica, che si interseca in maniera devastante con la sua vita professionale. Lui ha avuto tantissime donne, relazioni tutte molto difficili, numero impressionante di figli. La prima moglie è la modella indiana Anna Kashfi, alcolista, sarà al centro di un giallo terribile perché rapisce il figlio che ha avuto da Brando, Christian Devi. Il tribunale l'aveva assegnato al padre, lei lo cede a una comunità hippie che lo porta in Messico. Insomma, l'attore dovrà ingaggiare un detective privato per riuscire a rintracciare il figlio e riportarlo a casa. E poi c'è la seconda moglie, la messicana Movita Castaneda, e lì ci sono due figli, Mico e Rebecca. La coppia finisce subito. Poi Brando incontra la polinesiana Tarito, l'abbiamo detto, altri due figli, Simone e Cheyenne. E poi c'è la sua cameriera Cristina Maria Ruiz, dalla quale altri tre figli, Nina, Miles e Timothy. E poi altri quattro figli da donne non famose. Insomma, arriviamo a 12 più tre adottati, 15 figli. Però lui da tutta questa tribù ha molti dispiaceri. Il più terribile è quello del 1990, quando il primo figlio, Christian, al culmine di una lite furiosa, uccide un uomo che si chiama Doug Drollet, che è il fidanzato della sorellastra Cheyenne, che era incinta. E Cheyenne non supera quel trauma. Dopo due tentativi falliti nel 95 si suicida. Questo per Brand è un colpo terribile, è insopportabile, e cerca ancora di riprendere. Recita ancora con Johnny Depp, con De Niro, ma le sue condizioni psicofisiche sono al limite. Lui è obeso, è malato nel 2004, il primo luglio ha una crisi respiratoria per un enfisema polmonare e muore. È una vita piena di successi stellari, ma anche di dolori insopportabili, segnata fin dall'inizio, dalla convinzione di non essere stato amato e voluto dai genitori, all'incapacità di superare questi traumi, che si è trasformata nel tentativo di salvare i più deboli, sperando in realtà di salvare se stesso. Insomma, questo e tanto altro è stata la grandiosa e tormentata esistenza di Marlon Brando, che comunque dei suoi dolori ha fatto un reattore nucleare, perché è diventato uno degli attori più grandi della storia del cinema. I suoi colpi d'ala sono stati i più grandi gesti di storia del cinema e di ribellione nei confronti di Hollywood. Se avete qualche personaggio o qualche commento, insomma, per qualsiasi cosa, sapete dove trovarci, siti, social, se volete, io sono qua. Ciao, a domani. Now I greet you from the other side of sorrow and despair, with a love so vast and shattered. It will reach you everywhere. And I sing this for the captain whose ship has not been built, for the mother in confusion, her cradle still unfilled, for the nights of wild distress. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri.